Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. C'ho un quadro con un cesto con dei frutti e dietro c'è un fanciullone che mi ha dato mia zia. Potrebbe essere un Caravaggio, tu lo sai. Anch'io ho pensato. Hai questo sospetto. È in cucina adesso. Ho io lo strumento per te, aspetta un attimo. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi incominciamo. Porte aperte per l'arte. Se avete un Raffaello in casa ma non ne siete sicuri, il CNR di Pisa ve lo analizzerà gratuitamente. Sindaci di tutto il mondo a Firenze discutono di come rendere più intelligente e sostenibile la città per il cittadino e per il turista. Il computer quantistico è oggi un progetto più vicino grazie ad una ricerca di un team italiano. Corrono voci sul bosone di Higgs. Ancora niente di ufficiale, ma vediamo cosa bolle in pentola. La Fondazione Armenise ha già investito 18 milioni di dollari per far rientrare in Italia ricercatori italiani. È un caso raro, anzi rarissimo, di mecenatismo scientifico. Allora, Chiara. Allora, ho questo forse un Caravaggio. Ma non sarai l'unico in Italia. C'è qualcuno che penserà di avere un Raffaello piuttosto che un Michelangelo, Tiziano. Insomma, qualsiasi cosa. Ecco, in aiuto a voi che avete questi cimeli di cui non sapete la provenienza, oppure siete insicuri di quale sia l'origine di questi cimeli, viene in aiuto il CNR, cioè l'Istituto di Ricerca Nazionale Italiano, che mette a disposizione i propri strumenti, quindi altamente tecnologici, spettrografi laser, eccetera, eccetera, per appunto valutare i vostri oggettini. Questa è un'iniziativa che si chiama Porte Aperte all'Arte e viene dai laboratori dell'Istituto di Chimica del CNR di Pisa. Qui con noi stasera c'è Vincenzo Palleschi, che è appunto responsabile di questo laboratorio e anche un po' l'ideatore di questa iniziativa. Buonasera Palleschi. Buonasera. Buonasera. L'iniziativa mi pare lodevole, mi sembra che abbia avuto anche un discreto successo, perché l'avete praticamente inaugurata 2 o 3 settimane fa e avete già il pienone fino a marzo. Sì, veramente siamo attivi dal 1° di dicembre e adesso le prenotazioni sono arrivate ad aprile. Caspita. Effettivamente c'è una risposta anche decisamente interessante a questa iniziativa. Ma cosa vi portano? Di tutto? Di tutto, e noi siamo molto contenti di questo, perché l'idea è proprio quella di dare alle persone, far pensare un attimo a tutto quello di interessante e di bello che magari abbiamo dentro casa, su un muro, in uno sgabuzzino, cercare di ridargli un valore che può essere affettivo sicuramente, ma poi può essere anche storico, può essere artistico. Ma vi portano delle croste tremende anche, oppure effettivamente delle cose che sulle quali c'è da indagare? Questa è nella logica dell'iniziativa. Noi quello che vogliamo dare è proprio un'idea alle persone di cosa hanno. Quindi questo qualcosa può essere un oggetto che ha un valore puramente affettivo, come dicevo, o un oggetto anche di interesse artistico. Palleschi, però dobbiamo dirlo che è completamente gratuito. Ah, certo. Sì, questo è un aspetto su cui ho voluto in qualche modo battere, anche se effettivamente c'è un po' il rischio, no? Che le cose gratis tante volte sono considerate o possono essere considerate senza valore. Infatti ci dica che tipo di analisi fate, tecnologicamente molto avanzate. Appunto, noi siamo un istituto di ricerca che è attivo nel settore della diagnostica, della conservazione dei beni culturali da diversi anni. In questi anni abbiamo sviluppato ovviamente un'esperienza, e questa è difficile da quantificare, e poi abbiamo anche strumentazione di altissimo livello, strumentazione acquisita naturalmente con fondi pubblici, e il nostro interesse, la nostra idea è quella di riportare un pochino questo investimento che la comunità ha fatto, anche farlo ricadere sulla comunità stessa. Per esempio, voi riuscite a datare una pittura, insomma, questo è un discorso abbastanza complesso, perché soprattutto con metodologie non distruttive, che sono le uniche che riteniamo si possono utilizzare. Certo. In questo campo non c'è una possibilità di dare una datazione diretta di un'opera d'arte. E i nostri strumenti sono sempre un supporto, un ausilio poi allo storico dell'arte, allo studioso, e sulla base delle nostre informazioni, integrandola, lei dice. Sì, che possa essere possibile poi formulare o affinare delle ipotesi e delle teorie. Ora, in tempi recentissimi, proprio con le strumentazioni analoghe e in collaborazione con l'impresa locale che sta si è messo in gioco, diciamo, dandoci una mano in questa iniziativa, ad esempio è stato attribuito un Caravaggio che si riteneva di scuola, proprio facendo indagini, vedi Federico, di tipo scientifico, ecco. Si parlava di Caravaggio, sicuramente porto quello che è una situazione chiaramente unica, non ci aspettiamo che si ripeta sicuramente non una volta a settimana, scusi. Però, Palleschi, altrimenti queste indagini, queste analisi sarebbero costosissime? Sono indagini sicuramente costose e difficili da affrontare per una persona che non ha un'idea preliminare di quello che è effettivamente un valore, appunto, del proprio oggetto. Certo, poi voi mettete a disposizione anche i ricercatori che hanno un'altissima preparazione, quindi insomma non è che mettiamo in mano le nostre croste ai primi che capitano. Beh, questa è una cosa abbastanza importante. Io dicevo, sono diversi anni che sto lavorando in questo campo. Io sono un fisico che lavora in un istituto di chimica, quindi ho una preparazione essenzialmente tecnico-scientifica. Però nel passato più o meno recente ho battuto molto sul fatto che si dovessero acquisire, lavorando in questo campo, anche competenze di tipo diverso, di tipo storico, umanistico, storico dell'arte, eccetera. Io credo il nostro istituto è l'unico istituto di chimica in Italia che ha uno storico dell'arte come borsista. Ecco, bene. Federico, lo richiamiamo tra un annetto e ci facciamo dire che tipo di oggetti sono stati consegnati nelle vostre mani. Molto grazie, volentieri. Palleschi. Comunque, già dando un'occhiata alla lista delle prenotazioni, c'è una grandissima varietà. Ci saprà dire allora, Palleschi. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Eccoci qua anche oggi, pronti che arriva il quiz. Fra poco parleremo di computer quantistici, una realtà che potrebbe non essere poi tanto lontana. Hanno una caratteristica precisa i computer quantistici. 1. Sono più sicuri, ovvero proteggono meglio le informazioni che maneggiano, ci scriverete sicuri. Oppure costano meno e ci scriverete meno. Terza e ultima possibilità, sono molto più piccoli di quelli che abbiamo ora e ci scriverete piccoli. Sempre ci scriverete con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana, Favole periodiche, la vita avventurosa degli elementi chimici, di Hugh Aldous Williams, edito da Rizzoli, e questo libro è offerto da libreriarizzoli.it. La soluzione arriva fra poco. A Firenze in questo weekend si è tenuto un grande convegno internazionale dedicato alle città intelligenti, alle smart cities e a un insieme di cose al contorno che, insomma, riguardano la possibilità di avere delle situazioni di vita all'interno delle grandi aree metropolitane migliorate rispetto ad oggi sotto tantissimi aspetti. E a Firenze si sono riuniti sindaci, amministratori, ricercatori provenienti davvero da tutto il mondo, in occasione del Congresso Mondiale edizione 2011 di sindaci e amministratori. Qui con noi questa sera, noi cominciamo a parlare in questo spazio di questo appuntamento, e il primo incontro l'abbiamo con Giovanni Menduni. Buonasera Menduni. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Coordinatore dell'area innovazione del Comune di Firenze. Ecco, Firenze è uno dei, credo, 3-4 posti al mondo per quanto riguarda la concentrazione di turismo e di turisti. So che avete dedicato uno spazio a tutto ciò che può essere il rapporto fra nuove tecnologie, nuovi strumenti e una gestione migliore di questo flusso. Certo, noi abbiamo iniziato questo 2011 lanciando un'iniziativa molto forte, cioè un servizio che consentisse la fruizione integrata di oltre 50 musei di Firenze, compresi naturalmente i big come Uffizi, David, Pitti, attraverso un unico biglietto. Un biglietto elettronico che adesso è montato a bordo di una carta RFID, ma che teoricamente e anche praticamente può essere montato su qualsiasi altro supporto, compreso uno smartphone, una carta di credito o qualunque cosa, e attraverso questo il turista può girare la città senza se e senza ma entrare nei musei che crede, usufruire gratuitamente dei servizi pubblici. L'iniziativa ha avuto un grandissimo successo, ad oggi abbiamo avuto oltre 150.000 ingressi che stanno crescendo vertiginosamente. Questo naturalmente è stato solo l'inizio, perché ha consentito innanzitutto di spalmare i flussi, perché questo visitatore Firenze Card è un visitatore curioso, è un visitatore che visita mediamente 7 musei in 72 ore e anche musei scientifici, anche musei universitari, anche musei non necessariamente inseriti nei flussi classici. Ecco. Cioè, se ho capito bene, voi creerete in tutto lo spazio monumentale, centrale, grandissimo di Firenze, una rete che metterà a disposizione, mentre il turista cammina e si sposta, metterà a disposizione dei percorsi a sua scelta, segnalandogli man mano dove si trovano le cose che lui, per esempio, vuole vedere tutte insieme. Per esempio, tutto ciò che è la scultura del 400, per esempio. Ecco. Sì, noi più che percorsi ci piace chiamarle esperienze. Sì. Il visitatore decide in qualche modo qual è l'esperienza che vuol fare della città, ha a disposizione una rete connessa di wifi che gli consente in linea generale di non sganciarsi mai e a seconda di dove si trova, in base all'esperienza che ha scelto, si scarica e visualizza i contenuti che gli sono necessari appunto per godersi questa esperienza, che non solo è la scultura del 400, quella del Rinascimento di Dante, ma è ad esempio la moda, il gusto, l'impresa, tante altre cose che possono comunque essere connesse dalla nostra offerta museale, che è davvero di larghissimo spettro. Certo. Ad esempio, col servizio Firenze Card noi abbiamo visto che i musei universitari, i musei scientifici hanno avuto un grandissimo appeal per i nostri visitatori, ma anche il circuito delle mostre, Palazzo Strozzi, quindi ce n'è da benedire e santificare, diciamo. C'è tantissimo. Grazie, buon lavoro. A voi, arrivederci. Al convegno di Firenze è stata presente anche Telecom, e qui con noi abbiamo questa sera Andrea Costa. Buonasera Andrea Costa. Buonasera a tutti. Responsabile del Vertical Marketing, e in particolare lei lavora su tutti i progetti che hanno a che vedere con le Smart Cities, no? Assolutamente sì. Bene, allora Telecom si è mossa anche in anticipo qualche tempo fa, insomma un po' prima degli altri, ha cominciato a ragionare sulle Smart Cities e adesso sono diventati un tema caldo. In che modo voi vi intrecciate con questi progetti? Alcuni ormai importanti stanno partendo anche in Italia. Sì, assolutamente. Noi abbiamo avuto un'intuizione intercettando alcuni macro trend, no? Che sono dietro il tema delle Smart Cities. Il fatto che la popolazione continui a spostarsi nelle aree urbane, oltre il 50%, e il fatto che nelle città sostanzialmente si consuma tanta energia, si emettono tanti gas, quindi l'80% delle emissioni di CO2 comunque attribuibile alle aree urbane, pur avendo una superficie molto bassa. Di contro, in maniera positiva, sono i poli dello sviluppo economico, dello sviluppo culturale, quindi tanti giovani, tante iniziative imprenditoriali. Dal 2009 la Comunità Economica Europea ha sostanzialmente deciso che le Smart Cities erano un tema fondante per lo sviluppo economico e ha in piano di premiare le 20 città più ambiziose dal punto di vista della smartizzazione appunto dei servizi, mettendo sul tavolo 11 miliardi di euro. Come veniamo a noi, a Telecom Italia, il ruolo importantissimo che noi possiamo possiamo avere come player ICT. Premetto che sulle grandi iniziative Smart Cities che sono in Italia, che sono Genova, Torino e Bari, noi siamo presenti in tutte, no? Sicuramente Torino, che è l'ultima nata di queste iniziative, è la più significativa perché è già un modello molto evoluto e complesso. Su Torino chiaramente la nostra proposizione è dei servizi Smart Town. I servizi Smart Town sono dei servizi che coniugano il risparmio energetico con l'introduzione di nuovi servizi ICT. Cerco di spiegarmi meglio. Sì, lei utilizza oltre alle reti esistenti di telecomunicazioni anche alcune reti disponibili non usuali dal punto di vista delle telecomunicazioni, quali per esempio quella della illuminazione pubblica, e le utilizza per trasmettere anche dati e informazioni in banda larga, quindi ci fa lavorare sopra dei servizi, ottiene sostanzialmente due vantaggi. Il primo vantaggio è che lei può entrare a telemonitorare e telecontrollare l'energia elettrica, risparmiando fin da subito fino al 40% della bolletta elettrica. Certo, si regola l'intensità della luce durante la notte. Certo. Sì, ma esatto, per esempio, seguendo comunque il calendario solare. La seconda fonte di risparmio è che lei non deve più mandare in maniera inutile squadre di manutenzione in giro per il territorio per aggiustare i lampioni. Allora, solo questo porta comunque a dei consistenti risparmi. Allora, a questo punto, che cosa abbiamo fatto noi 3 anni fa e continuiamo a fare? Abbiamo iniziato a certificare su questa rete estesa una serie di nuovi servizi: gli hotspot wifi, una videosorveglianza intelligenti, pannelli informativi che diano per esempio informazioni ai cittadini, ai turisti sul traffico, sull'accessibilità e quant'altro. E nel far questo sostanzialmente abbiamo anche attuato un modello cooperativo, cioè noi siamo attuatori di questa piattaforma di servizi, ma di fatto accogliamo le migliori eccellenze che sviluppano servizi ICT, direi soprattutto con una matrice italiana. Questo è il secondo elemento particolarmente importante, perché questa piattaforma, che è una piattaforma industriale, ci permette comunque anche di valorizzare servizi e applicazioni di terze parti che insistono e che vengono tra virgolette certificate e ospitate su questa piattaforma. Abbiamo circa 80 comuni che già utilizzano queste soluzioni. Cito un caso eclatante perché ha anche una valenza sociale molto importante: il progetto Smart Inclusion, ad oggi in 8 ospedali italiani. Smart Inclusion prevede di entrare questa volta all'interno delle strutture degli edifici sensibili, quali gli ospedali, e soprattutto all'interno degli ospedali i reparti a più difficile accessibilità, quelli che curano magari o malati terminali o bambini che non possono uscire dall'ospedale. E utilizzando queste tecniche di connettività, quindi quelli della rete elettrica, anche affiancate dalle fibre ottiche plastiche che di fatto permettono di non scavare all'interno dei muri, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato dei servizi a bordo letto di alcuni bambini, quindi in un'ottica per cui il bambino, oltre che avere un minimo di intrattenimento in più, può collegarsi con i propri genitori e quindi fatto comunicare con loro, ma cosa ancora più importante, può avere un ponte con il mondo, con la scuola, perché il progetto per esempio sull'ospedale di Firenze prevede anche il colloquio con le lavagne interattive multimediali installate nelle scuole e quindi di fatto un vero esempio di inclusione sociale. Grazie Costa e buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a voi, arrivederci. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ed è qui con me questa sera Nicola Villa. Buonasera Villa. Buonasera. Direttore mondiale di Syscom per Urban Innovation, per l'innovazione urbana. Stiamo passando dal turismo alla banda larga e siamo sempre all'interno di questo grande appuntamento che c'è stato a Firenze sulle Smart City. Ecco, allora, per portare intelligenza nel tessuto urbano, una grande multinazionale come la Cisco dell'Information and Communication Technology e anche certo altre aziende sottolineano il fatto che ci vuole banda larga e in Italia sappiamo che insomma siamo un po' in ritardo, dovremmo averne di più. Ma con questa banda larga, Nicola Villa, che cosa effettivamente si ottiene di più nel tessuto urbano? Sì, la banda larga permette diciamo di fare due cose: innanzitutto di avvicinare il cittadino alla pubblica amministrazione ma anche alle imprese, quindi servizi pubblici che tradizionalmente vengono forniti diciamo in maniera analogica, una volta digitalizzati permettono di avvicinare di più il cittadino alla pubblica amministrazione. La banda larga è anche quell'infrastruttura che rende le altre infrastrutture urbane più sostenibili e più efficienti, quindi la rete energetica diventa smart grid perché è connessa, gli edifici diventano sostenibili perché c'è la banda larga e i trasporti diventano più efficienti perché l'information technology permette di gestire i flussi in maniera molto più coordinata. Cioè la banda larga è in grado di gestire molti più segnali, molta più comunicazione, e questi sistemi, per renderli efficienti, come per esempio appunto il risparmio energetico, hanno bisogno proprio fisiologicamente, fisicamente hanno bisogno di avere più informazioni scambiate nell'unità di tempo, e per questo insomma che i collegamenti che abbiamo adesso tendenzialmente non bastano. Assolutamente, quindi diciamo la città diventa smart perché tutti gli elementi singoli del tessuto urbano diventano collegati. La banda larga tra l'altro permette anche a livello di dati, di combinare dati che vengono da diverse infrastrutture. Oggi posso cercare di capire quanto la mia politica di trasporti abbia un impatto per quello che riguarda il consumo energetico delle case, e la banda larga mi permette di combinare questi due effetti con una gestione di dati che è molto più integrata. Esatto, anche l'intreccio di dati provenienti da diverse sorgenti per poter essere appunto intrecciato, insomma ci vogliono tante informazioni gestite contemporaneamente. Va bene, Nicola Villa, grazie e buon lavoro. A lei, grazie. Qui con me in studio ci sono Roberta Ramponi del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano. Buonasera Ramponi. Buonasera. E anche Roberto Osellame dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano. Buonasera. Buonasera. È appena uscito su Nature Communication una settimana fa un importante risultato nel campo del computing quantistico, e l'avete prodotto voi, ed è una cosa che indubbiamente è molto interessante, molto bella. Il computer quantistico ormai, in generale il calcolo quantistico, è entrato addirittura nella fiction, nei romanzi, nei cartoni animati addirittura di fantascienza. La sensazione era che fosse un po' lontano, invece con questo vostro passaggio sembrerebbe più vicino. Possiamo vedere subito qual è appunto la novità, l'elemento di novità? Diciamo, l'elemento di novità che noi abbiamo realizzato è un circuito ottico in vetro, un circuito in un vetro di pochi centimetri, nel quale riusciamo a fare interagire dei fotoni in un dispositivo che tradizionalmente viene chiamato controlled node, che è un po' il mattoncino base del computer quantistico, e riusciamo a fare interagire dei fotoni che, diciamo, si comportano come qubit. Come qubit. Allora, forse vale la pena, diciamo, sottolineare un pochino quelle che sono le differenze fondamentali fra computer quantistico e computer classico, esatto, che ci portano poi anche a dire qual è il vantaggio del computer classico rispetto al computer quantistico. Perché il circuito piccolino nel quale si muovono fotoni, questo è l'elemento di novità. Questo è l'elemento di novità, perché diciamo l'idea del computing quantistico, del calcolo quantistico, è ormai abbastanza vecchia. Sì. Il problema, come vedremo fra un attimo, è riuscire a realizzarla, perché sono richiesti, diciamo, sono richieste delle tecniche particolari che consentano un comportamento particolare, appunto quantistico, all'elemento che viene utilizzato per trasmettere l'informazione quantistica, per operare il calcolo quantistico. E quindi fotoni e non elettroni, questo è il fotoni e non elettroni potrebbero anche non essere fotoni, potrebbero anche essere degli atomi. Vedremo che i fotoni si prestano particolarmente bene. Quindi il computer ottico come computer quantistico è sicuramente un buon modello. Va bene, procediamo. La differenza fondamentale di un computer quantistico rispetto a un computer tradizionale è che si basa sui qubit, che cosiddetti quantum bit, brevemente qubit, cioè, che invece di essere dei bit che hanno solo valore 0 oppure 1, possono trovarsi in uno stato in cui coesistono in modo coerente il valore 0 e il valore 1. È come se il valore 0 e il valore 1 fossero sovrapposti, esistessero entrambi. Cioè lei dice prima era o uno o l'altro. Invece ci sono tutti e due, stanno lì insieme e sopravvivono insieme. Allora è come se noi avessimo, diciamo, un singolo qubit che vive in due universi paralleli. In uno vale 0, in uno vale 1. Quando noi andiamo a fare un calcolo su questo qubit, andiamo a operare sia sullo 0 che sull'1. Sì. Se adesso da un qubit passiamo a 2, siamo a 4. Operiamo su 4. Se passiamo a 3, operiamo su 8. E qui la potenza La potenza cresce esponenzialmente. E questo cosiddetto parallelismo quantistico è proprio quello che fa la differenza. A Attenzione, non è detto che il computer quantistico sia sempre meglio. Se dobbiamo fare una banale moltiplicazione, funziona tal quale come il computer tradizionale, non serve a niente. Okay. Cioè non accelera, non migliora. Non migliora. Diventa fondamentale nel momento in cui si vogliono simulare sistemi così complessi da sfruttare questo parallelismo quantistico. Ovviamente servono degli algoritmi che sono tutt'altro che semplici, ma esistono, ce ne sono parecchi. Uno classico, ormai viene considerato abbastanza classico come algoritmo, è quello di Shor, che permette di scomporre in fattori primi numeri anche molto grandi. E lo fa proprio giocando su questo parallelismo quantistico e, tanto per dare un'idea, riesce in linea di principio a scomporre in fattori primi un numero di 1000 cifre in 20 minuti, quando invece a un computer classico tradizionale servirebbero 1 milione di miliardi di anni. Quindi una differenza impressionante. Questo da un lato potrebbe essere piuttosto preoccupante, perché un computer quantistico potrebbe distruggere ogni sicurezza nelle comunicazioni, in quanto ovviamente sarebbe in grado di decrittare qualunque codice, anche matematicamente estremamente complesso, proprio sfruttando algoritmi basati sull'algoritmo. Questo perché molte sicurezze sono basate sul fatto che per riuscire a sproteggerle, no, bisogna ci vuole talmente tanto tempo che intanto la comunicazione è andata, è stata usata e non serve più decrittare. Ah, quindi è tremendo. Quindi in questo senso potrebbe essere preoccupante. D'altro lato va detto che proprio la computazione quantistica, le caratteristiche quantistiche ci danno in qualche modo la soluzione. Ci danno la soluzione perché ci consentono invece di trasmettere in modo assolutamente sicuro delle informazioni. Come? Non è ovviamente che possa essere eliminata l'intercettazione, ma la comunicazione quantistica consente di sapere se c'è stata un'intercettazione. Questo non è banalissimo, ma ci proviamo. Sempre nel caso dei fotoni si parla del cosiddetto entanglement dei fotoni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che due fotoni emessi insieme da una sorgente con particolari caratteristiche sono legati uno all'altro in modo proprio intrinseco, per cui se si va a toccare uno dei fotoni, l'altro viene modificato. Allora, che cosa si fa nella crittografia quantistica? Non si trasmette l'informazione, si trasmette la chiave per codificare e decodificare l'informazione. E la si trasmette con questi fotoni entangled. Chi riceve i fotoni è in grado di sapere se questo flusso è arrivato senza disturbi oppure se c'è stata una spia che si è infilata in mezzo, li ha letti e ritrasmessi. Perché nel momento in cui la spia, diciamo così, li tocca, chi li riceve si accorge che c'è un'alterazione. Quindi è una chiave preventiva, perché si riesce a capire che c'è un'intrusione. Cioè che c'è un'intrusione. Se c'è stata l'intrusione, si avverte l'altro e si dice: guarda, questa chiave buttala, mandamene un'altra. Una volta che è arrivata la chiave sicura, la comunicazione criptata e poi decrittata alla ricezione viene trasmessa su un canale tradizionale. Senza nessuna protezione in qualche modo, ma non importa, perché è un codice che è criptato ed è criptato attraverso una chiave che è casuale, quindi non c'è modo di ricostruirla attraverso algoritmi, attraverso l'intelligenza, non c'è assolutamente nessun modo se non avendo in mano la chiave. Roberto Gelame, come si costruisce questo nuovo circuito fotonico? Allora, va detto che appunto questa computazione quantistica dà questo salto di qualità, questa discontinuità nella potenza di calcolo, e questo però a costo di una tecnologia completamente nuova rispetto a quella attuale. Diciamo che il nostro risultato è stato principalmente quello di riuscire a dimostrare un circuito ottico integrato che permettesse di avere appunto questo dispositivo di calcolo su un chip estremamente piccolo. Per fare un'analogia, diciamo, per capire un po' la rivoluzione che si è avuta negli anni 70 anche nella microelettronica, che ha permesso di passare dai circuiti a valvole ai circuiti integrati, quindi poi sappiamo come questo ha portato a una rivoluzione anche nella società comune. La stessa cosa abbiamo fatto noi per il computer quantistico, quindi abbiamo fabbricato questo circuito integrato, questa volta ottico, perché gli elementi sono appunto i fotoni, non gli elettroni, direttamente scritto in un vetro. Quindi la nostra tecnologia si basa sull'uso di laser a femtosecondi, cioè laser con impulsi estremamente brevi, lampi di luce brevissimi, che permettono di scrivere direttamente nel volume del vetro queste guide d'onda, che sono questi condotti, questi circuiti in cui i fotoni vengono guidati e vanno poi a interagire. proviamo proprio a dare bene l'immagine, perché ormai abbiamo tutti chiaro che nel piccolo chip, quello che abbiamo anche dentro il nostro smartphone, ci sono dei circuiti nei quali girano gli elettroni. Qui abbiamo cose delle stesse dimensioni nelle quali circolano i fotoni, la luce. Quindi, esattamente. Questa è la grande differenza. Esattamente. Ed è questo che consente il computer quantistico. Esatto, perché appunto il qubit viene codificato all'interno del fotone, quindi poi per poter avere queste unità di processo analoghe alle CPU dei nostri computer su scale ridotte è necessario fabbricare questi circuiti ottici. Io credo che una cosa che può essere interessante sapere, ma non so se si hanno già dei possibili dati, è se anche in termini di costi il computer quantistico è dello stesso ordine di grandezza di quelli che abbiamo adesso, costerà molto di più, ma... Ma diciamo che al momento è molto preliminare parlare di costi, anche perché, come si diceva prima, la tecnologia viene completamente rivoluzionata, quindi non solo l'unità di processo, ma bisogna poi sviluppare anche delle memorie quantistiche, tutto il contorno, l'interfaccia. Quindi è un po' presto poterlo dire. Va bene, lo vedremo più avanti. Roberta Ramponi, sarà anche un computer più veloce, insomma, in grado di dare delle prestazioni anche in termini di rapidità? Sicuramente molto più veloce tutte le volte che ci sono dei problemi complessi da esaminare, quindi il parallelismo quantistico porta un vantaggio. Non solo, addirittura potrà fare operazioni che ai computer tradizionali non sono consentite. Pensiamo per esempio allo studio dei fenomeni quantistici, che sui computer tradizionali possono essere implementati solo attraverso calcoli estremamente approssimati. Nel computer quantistico si potrà simulare un comportamento quantistico e quindi ottenere informazioni, per esempio sul moto degli elettroni all'interno di un cristallo, simulando il modello, facendo interagire le variabili all'interno del computer quantistico in modo quantistico, quindi in qualche modo in modo naturale e automatico. Rappresentativo. Grazie Roberta Ramponi, grazie Roberto Gellam e buon lavoro. Grazie. Grazie e buonasera. La soluzione del quiz allora era che i computer quantistici sono più sicuri. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E qui con me anche Carlo Rovelli questa sera. Buonasera Rovelli. Buonasera. Ordinario di fisica teorica e ricercatore all'Università di Marsiglia. Allora l'abbiamo contattata per una rapidissima impressione. Circolano voci sul bosone di Higgs e quindi dal CERN di Ginevra. Forse la prossima settimana ci sarà una conferenza stampa, un comunicato. Sembra che bolla qualcosa in pentola. Non le chiediamo esattamente di che si tratta, perché credo che forse non ci siano dati. Però insomma, che sensazioni ha lei? Sensazione che diciamo l'attenzione è moltissima, c'è quasi una fibrillazione da parte degli sperimentali, dei teorici, perché sono decenni che aspettiamo di vedere se c'è o non c'è questa particella, e penso che quello che è bellissimo è che in realtà ancora non lo sappiamo, nel senso che la macchina di Ginevra lì sta cercando in maniera attiva, si stanno cercando nei dati, sembra di trovare, ma ancora non è certo, e credo che ancora non lo sa nessuno, per cui ci sono questi annunci. Adesso la prossima dovrebbe esserci gli ultimi dati. Qualcuno dice che si intravedono dei blip, come dicono loro, di bump, cioè dei segnali, però il fatto di vedere un segnale in sé non è ancora, potrebbe poi rivelarsi non esistente. È il movimento di un cespuglio nella foresta, che può essere vento, esatto, un animale. Siamo proprio una banda di cacciatori nella foresta che sta cercando questo bosone di Higgs che si nasconde, e dei momenti sembra proprio di vederlo, però come sappiamo potrebbe essere un cespuglio che si muove e non c'è niente. Oppure potrebbe esserlo, per cui potrebbe anche essere che a breve una risposta c'è. Per invece una risposta non, se la risposta non c'è, durerà ancora un po' l'incertezza, ma arriverà anche quella nel giro di, direi, di mesi. La macchina di Ginevra è in anticipo rispetto a quello che ci si aspettava sulla ricerca dell'Higgs, per questo anche che c'è molta fibrillazione. E in queste ore, insomma, sembra che ci sia forse qualche dato più interessante, ma lo vedremo. Esatto. Ricordiamo che questo bosone e questo Higgs, insomma, ricordiamo che questo bosone di Higgs è il pezzo mancante in una teoria che cerca di descrivere, insomma, i fondamenti un po' di tutto. Di una teoria che funziona benissimo e quindi ci si aspetta di trovarlo, ma nello stesso tempo è un pezzo un po' strano di questa teoria, per cui non si è certi di trovarlo, potrebbe in effetti essere un pezzo sbagliato della teoria, anche questo è possibile, quindi siamo veramente nell'ignoranza e direi nell'interrogare la natura nel modo più bello, nel senso di Galileo proprio. E dovrebbe dirci qualcosa di fondamentale sulla massa. No? Sì. Bene, aspettiamo, abbiamo una settimana, vediamo che cosa ci diranno da Ginevra. Grazie Rovelli, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Succede la seguente cosa, che però me la racconta Chiara Albicocco. Sì, infatti, Federico, vorrei raccontarvi di una singolare ricerca britannica. Ma prima vi farei ascoltare questo spezzone, che gli amanti del genere conosceranno benissimo. Mamma mia, che dolore! Oddio, mamma mia! Oddio! Dammi la mano, si rilassi. Ma non è il morto. Guarda, tu è aiuti lei. Proprio le comiche con Paolo Villaggio ci offrono un ottimo spunto per introdurre i risultati di un recente studio condotto da Claudia Amland e Richard Stephens, secondo i quali dire parolacce e inveire in maniera non eccessivamente scurrile, mi raccomando, attenuerebbe la sensazione di dolore fisico. Proprio come accade nello sketch che abbiamo appena sentito, il ragionier Ugo Fantozzi issa il suo ombrellone in spiaggia sulle gambe di un malcapitato bagnante, il quale appunto si sfoga con urla e imprecazioni. Ecco, allo stesso modo i ricercatori hanno sottoposto dei partecipanti volontari ad un esperimento, cioè ad un trattamento di dolore. I volontari dovevano così immergere le mani in una bacinella di acqua ghiacciata e cercare appunto di tenerle immerse il più a lungo possibile. A tutti i partecipanti erano state assegnate alcune parole da ripetere, ma solo alcuni avevano la facoltà di utilizzare un torpiloquio. Ecco bene, coloro che potevano dire le parolacce riuscivano a tenere immerse le mani nell'acqua gelida in media per 140 minuti, contro i 120 di coloro che invece non potevano usare parole scurrili. La ricerca in questione è stata pubblicata sulla rivista Journal of Pain. Gli autori ipotizzano che dire le parolacce possa attivare una risposta emotiva ad azione analgesica. Quindi, che cosa vuol dire? Attivare alcune aree remote del cervello legate alle emozioni. E proprio queste emozioni stimolerebbero l'organismo a produrre adrenalina. E ciò a sua volta contribuirebbe ad attenuare appunto la sensazione di dolore. Il meccanismo, sostiene Stephens, è molto semplice. La parolaccia stimola un responso emotivo che a sua volta provoca una cosiddetta analgesia indotta da stress. Sarebbe stupido, continua, consigliare di imprecare nell'ambito della sanità pubblica, ma le parolacce sembrano attivare parti del cervello associate di più alle emozioni. Nel contesto del dolore, imprecare sembra avere la funzione di semplice amministratore delle proprie emozioni. Ora ci piacerebbe, dice Stephens, poter esplorare se le parolacce hanno un effetto benefico anche in altri contesti. Bene, vi terremo informati sugli eventuali sviluppi. Donazioni consistenti per la ricerca non è cosa frequente nel nostro paese, c'è un'eccezione, ve la racconta Barbara Galavotti. Giovanni Auletta Armenise ha appena compiuto 80 anni. Probabilmente molti di voi si chiederanno chi è. In realtà il suo nome è molto noto a chi fa ricerca nel campo biomedico. Infatti, 15 anni fa, il conte Auletta Armenise ha dedicato un sostanzioso patrimonio a una fondazione che è chiamata Giovanni Armenise Harvard Foundation. Da allora la fondazione ha investito 19 milioni di dollari per consentire il rientro in Italia di 15 ricercatori e ha anche finanziato molti altri per partecipare a brevi periodi di ricerca presso la Harvard Medical School. La fondazione ha anche finanziato delle borse che negli ultimi anni hanno permesso a 23 giornalisti scientifici, fra i quali io stessa, di visitare Harvard. Insomma, si tratta di un caso raro, rarissimo, di mecenatismo scientifico. Almeno è raro in Italia. Ma perché così raro? E che effetto può avere un finanziamento privato alla ricerca, al di là di quello ovvio per le persone che ne sono beneficiarie? Ne parliamo con Michele Solimena, docente alla Scuola di Medicina di Dresda e a capo di un gruppo di ricerca di biologia cellulare al Max Planck Institute della stessa città, oltre ad essere coordinatore della commissione scientifica della Fondazione in Italia. Buonasera. Buonasera. Allora, ci spiega quanto è unico il caso della Fondazione Armenise? Sì, in effetti il caso della Fondazione Armenise è unico. Che io sappia non vi sono altri mecenati che in Italia finanzino la creazione di gruppi di ricerca. Si tratta per lo più nel caso di fondazioni o di associazioni, ma questo è un caso appunto particolare perché si tratta di una donazione da parte di un singolo individuo di una quantità ovviamente ingente di fondi. Ecco, una cosa del genere è più comune invece in Germania? Diciamo che in Germania questo soprattutto recentemente è accaduto, vi sono diversi esempi, per esempio la famiglia che possiede la Boehringer Ingelheim ha donato qualche anno fa 100 milioni all'Università di Mainz. La fondazione Jacobs ha donato decine di milioni di dollari alla Jacobs University a Bremen. Anche qui in Sachsen un mecenate ha donato una quantità ingente all'Università di Freiberg per studi nel campo della mineralogia. Quindi diciamo che è una tradizione che è presente in Germania e soprattutto nei paesi anglosassoni. Le ho chiesto della Germania perché è il paese in cui lei vive, però certo. In effetti sono i paesi anglosassoni che sono i massimi esponenti di questo tipo di donazioni. Secondo lei come mai? Si tratta di un approccio culturale diverso, nel senso che il mecenatismo è considerato come una forma di ritorno alla società per quanto si è riuscito, diciamo, a ottenere dalla società stessa. Pensiamo al caso di Bill Gates, che ha donato praticamente quasi l'intero patrimonio alla fondazione che porta il suo nome, quello di sua moglie. Esattamente, cioè ci sono anche degli incentivi dal punto di vista fiscale, però chiaramente questi di per sé non giustificano. È anche un incentivo per l'università, immagino, perché un'università eccellente deve restare tale per avere sempre più fondi. Assolutamente, infatti tra le università americane soprattutto c'è anche una competizione, diciamo, andare alla caccia dei donatori e anche, diciamo, come dire, attirarli a particolari progetti di ricerca abbastanza anche visionari. Io penso che un'attività simile in Italia sarebbe assolutamente necessaria, insomma, per molti anni si è pensato in Italia purtroppo che l'attività di ricerca fosse un lusso. Io credo che purtroppo l'esperienza dimostra che non invece considerare la ricerca come un obiettivo primario di un paese, è un lusso che l'Italia non si può più permettere. La fondazione ha investito in Italia 19 milioni di dollari in 15 anni, però il grosso, 39 milioni di dollari fino adesso, sono stati investiti ad Harvard negli Stati Uniti. Ecco, perché secondo lei c'è stata questa scelta di fare un investimento privilegiato negli Stati Uniti? Ma in primo luogo sono le circostanze storiche che hanno indotto questa donazione, nel senso che il conte Auletta Armenise fece questa donazione per la propria moglie che fu trattata ad Harvard, quindi aveva un particolare rapporto, diciamo così, di gratitudine, nei confronti di Harvard. Però penso che ci siano anche degli altri aspetti, soprattutto la possibilità di connettere il mondo della ricerca italiana con quella che è considerata la più prestigiosa università al mondo come Harvard, e anche sicuramente la garanzia che questi fondi verranno gestiti nel modo più oculato, nel modo più trasparente e con il maggior impatto possibile per la ricerca. Anche in Italia però ci sono delle istituzioni che garantiscono un buon trattamento dei fondi che ricevono, per esempio Telethon. Assolutamente, assolutamente. Infatti io penso che queste siano due degli esempi di cui in generale il Paese può andare assolutamente fiero per quanto riguarda i criteri di meritocrazia, di trasparenza, di visibilità internazionale anche dei giovani e in generale dei progetti di ricerca che vanno finanziati. Grazie Michele Solimena, buonasera. Buonasera. Che poi queste donazioni sono davvero un investimento sul futuro del paese. Speriamo che crescano, ecco. E se ne avremo altre ve le racconteremo. Arriveranno già nella prossima settimana, ma noi comunque saremo qui fra 7 giorni. Buona settimana a tutti e a tutte.